qua. C'è qualcuno? Bravo Julius, nave scuola Amerigo Vespucci, stazione valida 15 punti QRZ. C'è qualcuno in ascolto? Ehi, dimmi un attimo. Aspetta un attimo. Prova. Ehi, vedi un pochino. Ma adesso con che cosa stai uscendo? Con l'X50? Perché segnale non ne hai, eh? No, sono l'altro. Ah, cambia l'antenna a vedere se c'è segnale. Ehi, Natali. Sempre esci uguale come esci con l'antenna di... del portatile, non cambia niente. Si sente la radio, apri lo squelci, ma segnale non ne hai. Perché queste antenne piccoline con il radiale devono essere almeno 2-3 metri dal piano di terra, capito? Se no non irradiano. Ce l'ho anch'io una XC30, l'ho messa nella finestra ma non riceve. Riceve meglio l'antenna in gomma. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bel casino. Le UHF lo sai, è un casino. Ma non irradia, Natali, c'è il muro di fronte, capito? Dove sei libera, lo sai come funziona, no? Non ti devo insegnare niente. Vabbè, ma lo devo affutti, l'importante è che ti sentano. Io ti sento, che sono quello più distante. Gli altri, quelli della Teroce, sicuramente ti sentono. Cosa di Naffuti, va bene così, non ne dobbiamo fare le gare qua. Allora fregatene, lascia tutto così. L'importante è che arrivi qua, che sono quello più distante. Io a Gianni, ad esempio, non lo sento qua, a doppio, non lo sento, capito? Se non si mette l'antenna esterna, lo sentono solo i vicini di casa, io non lo sento, né io né Antonello. Mentre io e Antonello a te ti sentiamo. Ma se gliel'abbiamo detto quando abbiamo montato l'antenna nuova, cazzo, c'è il cavo, quello vecchio, che era buono. Mettevamo un'antennina lì in quella staffettina che c'era, non si vede niente, non dà nessun fastidio, e avrebbe fatto un'altra calata e a quest'ora aveva l'antenna anche lui, perché noi qua parliamo adesso, siamo quasi tutte le sere qua, capito? Eravamo lì, cosa ci voleva? Ci voleva 10 minuti, non è che ci voleva molto. Un antennino stracco barato, comprava la staffa, c'era già un tubicino piccolino, mi dà da un metro, mi piccolo, giusto per essere fuori l'antenna, in alto, e sarebbe arrivato tranquillamente a fare due chiacchiere anche qua, capito? E in stazione si avrebbe messo il portatilino, quando senti qualcuno rispondi qua, quando non c'è nessuno si parla in 27, come facciamo noi, a volte ci chiamiamo qua e parliamo qua. Vabbè. Avvicinati però alla bocca al microfono, perché sei basso di radio. Vabbè, ma esce bene la radio se ti avvicini. Il portatile ti devi avvicinare, non puoi parlare come parli col microfono, Sì, ok, vabbè, no problem. No, così ti ascolto benissimo. Radio 5, apri bene lo squelce, non c'è nessun problema. Natale, io sto usando il 60, il 60 è il 599, quello grande, 590, capito? Sto usando quella e sono qua a casa. In campagna anch'io c'avevo il portatilino, qua c'ho tutte le radio, quindi uso queste, che si naffutti. Vabbè, il 60, già lo sai che qua regolazioni non ce n'è, a 1, a 2, in FM, quindi spingi un bel. No, ma guarda, anche tu non hai segnale, però apri bene lo squelci, la radio 5 è perfetta, quindi non c'è nessun problema. Io ti ascolto, Antonello ti ascolta, sicuramente dalla parte bassa del monte ti ascoltano tutti, quindi che problemi hai? Usa così e tu sei a posto, mentre Gianni invece ha difficoltà, se ci sono io e Antonello, io non lo sento, arriva solo nella parte bassa, capito? Ehi, allora un'altra gubba. Allora un'altra gubba, capito? Allora un'altra cosa. Vabbè, comunque tu arrivi anche col portatile. Lui non arriva per niente, io non lo sento. Ieri stava parlando con Luca e non lo sentivo io, assolutamente, neanche Antonello, capito? Ma c'aveva tutto, aveva anche il cavo, già con i PL pronti. Intanto non c'è bisogno di mettere il cavo, va bene anche il 58. Capito? Lì in quella staffettina dove lui ha legato il cavo, lì Cioè, da un pezzettino di tubo a 50 cm metti un'antennina, cosa ne sai che antenna è, che antenna no è? Non dà fastidio a nessuno. Cos'è Natalie? Ah, ho capito. Vabbè, già vuoi ti dica. Non lo so. Va bene, Tattali, dai, che mi metto a fare qualche cosetta. È tutto acceso qua, e quando vuoi chiama. C'ho il PMR e il canale 10 acceso, ok? Vabbè, lì non c'entri tu, ma qua, quando vuoi chiama, io sono qua, ok? E a dopo.